Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Davide Boni per ora resta al suo posto, il presidente del Consiglio regionale lombardo indagato per corruzione in ufficio al Pirellone. Come al solito la Lega è riunita per valutare il caso. Tensioni anche nel PDL, Berlusconi salta la puntata Porta a Porta per non delegittimare Alfano, spiega Bruno Vespa. Visco, l'Italia è un paese anziano, per aumentare la crescita occorre lavorare più a lungo. Frenata su Rossella Urru, non è libera la cooperante italiana, conferma la stampa mauritana. Buongiorno ad Alessio Maurizi, GR24, ben ritrovati. In primo piano l'inchiesta per corruzione alla regione Lombardia, per ora niente dimissioni dalla presidenza del Consiglio regionale. Dell'inchiesta per corruzione che ha coinvolto Davide Boni dovranno discutere nelle prossime ore i vertici della Lega, che a quanto si apprende potrebbero vedersi già nel pomeriggio a Roma. Bossi insieme a Maroni, Calderoli e Giorgetti dovranno dare indicazioni precise su come affrontare un caso giudiziario che ha molti risvolti politici. In attesa, Boni è rimasto al suo posto, si è presentato il presidente del Consiglio Lombardo a lavoro stamane, come ogni giorno al Pirellone, si è chiuso nel suo ufficio al 25esimo piano. Sono però 4 su 5 i membri dell'ufficio di presidenza che risultano indagati. Prima di Boni infatti era toccato a Filippo Perati del PD, a Franco Nicoli Cristiani e a Massimo Ponsoni del PDL. Unico superstite Carlo Spreafico, quota PD, che dice le responsabilità sono personali. Sentiamolo al microfono di Maria Luisa Pezzali. Ammesso che le accuse siano vere, quindi prima di dare giudizi definitivi bisognerà attendere il lavoro della magistratura, succede che evidentemente siamo di fronte a delle responsabilità che, se accertate, sono gravi, ma restano delle responsabilità personali. L'ufficio di presidenza in quanto tale non è stato coinvolto, i fatti contestati sono risalenti ad epoche, a incarichi e riferite eventualmente ad incarichi che non hanno nulla a che fare con le attività dell'ufficio di presidenza. Lei si sente un sopravvissuto? No, io mi sento una persona che faceva, con tutti i limiti del caso, il proprio dovere, continuerà a farlo il proprio dovere. Nell'attività dell'ufficio di presidenza non c'è mai stata ombra di queste vicende di cui si parla ora. Mi auguro che Davide Boni rassegni le dimissioni dall'incarico di presidente, che venga sostituito, tra l'altro credo sarebbe buona cosa, con un presidente di garanzia. Secondo lei Formigoni deve dimettersi? Non solo secondo me, ma c'è una posizione precisa del gruppo consigliere Partito Democratico. Siamo sicuramente di fronte a un progressivo degrado dell'immagine istituzionale di Regione Lombardia. Per ridare credito a questa istituzione è necessario anticipare la fine della legislatura. E Davide Boni intanto potrebbe chiedere presto di farsi interrogare dai magistrati su questa vicenda di corruzione. Così hanno fatto sapere i suoi legali. Roberto Formigoni, il presidente della regione, intanto auspica una riflessione sulla questione morale, però invita i partiti a non giocare allo scaricabarile. Attendo le dichiarazioni di Boni, che ha preannunciato di essere completamente estraneo alla vicenda, mi auguro che così sia, dopodiché sarà la magistratura a darci i verdetti e la Regione Lombardia è pronta a difendere il proprio interesse ove fosse stato violato. È chiaro che occorre una riflessione in profondo e dei gesti profondi che permettano di estirpare il fenomeno della corruzione. Questo è un fenomeno che riguarda non soltanto Lombardia, ma tutto il paese, anche ben al di là dei confini italiani. I cittadini devono dire basta alla corruzione, nessun partito si salva, così Piero Bassetti, primo presidente della Regione Lombardia, al microfono sempre di Maria Luisa Pezzali. Molto più importante di chi è la colpa, perché il problema ormai è generalizzato, sarebbe quello di cercare come possiamo dare la sveglia alla società civile perché essa corregga questa corruzione. Spiegare alla gente che le vittime della corruzione sono loro. Il mio paragone è a quello che sta succedendo in materia fiscale. È innegabile che in un anno e mezzo, la società civile italiana ha cambiato atteggiamento e moralità verso il fisco. Non è che io creda che siamo diventati tutti dei contribuenti modelli. cervello, però certamente c'è stato un cambiamento che già dà dei risultati, per esempio di rendimento fiscale. Se noi lavorassimo per convincere la gente che devono darsi una regolata, perché la corruzione è un disastro per tutti, non per stabilire se la giunta Formigoni deve dimettersi o no, ma sostanzialmente il tema vero è come si redime la società italiana dalla corruzione. Con le dimissioni siamo sicuri che quelli che subentrano saranno diversi? La mia convinzione è che le probabilità che siano diverse sono ridottissime. Dall'inchiesta per corruzione che riguarda la regione Lombardia ci spostiamo per un'ultima ora in Sicilia per un'altra inchiesta che riguarda invece presunte attività illecite durante lo svolgimento delle elezioni primarie a Palermo. Ci sarebbe una indagata che fa parte della lista di Ferrandelli, e allora cerchiamo di capirci qualche cosa di più. Una notizia di pochi minuti fa con Nino Amadore del Sole 24 Ore da Palermo. Nino, quali sono le notizie? Ma sì, non si conosce il nome, ma comunque si tratta di una rappresentante di lista di Fabrizio Ferrandelli, che, come ricorderete, ha vinto le primarie di domenica scorsa. Era già stata indicata da alcuni, i carabinieri avevano verificato che c'erano delle irregolarità nel quartiere Zen, un quartiere popolare di Palermo, e questa donna era stata indicata quale responsabile di aver distribuito delle schede elettorali e un euro per far votare le persone. Se ne capirà di più sicuramente nelle prossime ore, comunque l'indagine c'è e va avanti. Questo è tutto. Grazie Dino Amadore per questi brevi particolari sulla notizia, lo ripetiamo, viene da Palermo indagata una rappresentante della lista Ferrandelli che ha vinto le elezioni primarie per il centro-sinistra a Palermo. E ancora di politica parliamo, perché abbiamo sentito la situazione in casa della Lega. Ieri il segretario del PDL Angelino Alfano ha dichiarato finita l'alleanza con la Lega, e proprio Alfano è al centro del giallo sulla puntata di Porta a Porta con Berlusconi, che è stata sospesa. Cerchiamo di capirci qualche cosa di più con Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, ha dato forse pochi minuti prima della registrazione, la puntata sarebbe dovuta andare in onda stasera, avrebbe segnato il ritorno dell'ex premier nel suo salotto preferito dopo le dimissioni dello scorso 12 novembre. Berlusconi è rimasto vittima della par condicio, ha commentato Bruno Vespa, una sua presenza in parallelo con il segretario del PD Bersani, che è prevista per il 21 marzo, avrebbe creato sgradevoli equivoci sulla leadership del partito che è di Alfano, al quale Berlusconi intendeva confermare ancora una volta tutta la sua fiducia. Si sarebbe vista insomma un'alternativa Berlusconi-Bersani come se nulla fosse cambiato, una rinuncia motivata dallo stesso Berlusconi, con la necessità dunque di evitare fraintendimenti e di non alimentare ulteriori tensioni nel PDL dopo le polemiche della scorsa settimana, quando il Cavaliere definì il segretario Alfano un leader senza storia, salvo poi fare una precipitosa marcia indietro. A spingere Berlusconi verso la rinuncia sarebbero stati alcuni esponenti del PDL, a dimostrazione del fatto che il livello di tensione all'interno del partito resta comunque alto. Intanto proprio in questi minuti la notizia è che Alfano non andrà al vertice con Monti, una rinuncia che è stata motivata dal segretario, perché dice è un vertice in cui si parlerà di Rai, di giustizia e non della situazione economica. Forse una rinuncia che potrebbe alimentare ulteriori illazioni. E intanto il segretario del PD Bersani ne approfitta invece per lanciare una provocazione. Vespa si tolga dall'imbarazzo, inviti sia Berlusconi che Alfano, io posso cedere il mio posto, ed erome tutto. Grazie Alessandra Schepisi, salutiamo Stefano Fogli, editorialista del Sole 24 Ore, buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Con te vogliamo commentare soprattutto il caso Lega, prima però ti chiediamo, visto che le agenzie e i siti oggi titolano giallo su questa mancata presenza di Berlusconi a Porta, cosa c'è dietro? Ancora tensioni per la leadership su Alfano secondo te? Ma le tensioni ci sono indubbiamente, e c'è il fatto che non ci possono essere due galli nello stesso pollaio. È evidente che Berlusconi, dopo essere stato per 18 anni il protagonista pieno della vita politica del centrodestra, oggi è un personaggio molto ingombrante. Una sua presenza in televisione inevitabilmente riporta su di lui i riflettori e i discorsi della leadership effettiva, non formale. Quindi se Berlusconi vuole aiutare Alfano a consolidarsi, deve restare sempre di più indietro, nel, diciamo, dietro le quinte del suo partito. Ogni volta che esce sulla scena, questo crea una instabilità interna e certamente fa del male alla prospettiva di Alfano. Quindi credo che Berlusconi debba abituarsi a questa situazione, mentre Alfano dovrà abituarsi a dare dei segnali politici sempre più chiari e anche, diciamo, relativamente autonomi da Berlusconi. Interpreto così anche questa sua mancata partecipazione al vertice di oggi, la necessità, sì, di richiamare su se stesso, diciamo, l'attenzione dei media. Abbiamo detto che oggi i vertici della Lega si riuniranno per valutare le ripercussioni del caso che riguarda Davide Boni, il presidente del Consiglio regionale indagato per corruzione. Cade, secondo te, a questo punto la pretesa di una Lega di essere un partito moralizzatore della politica, come ha preteso di essere per anni, oppure bisogna tenerci, Stefano, alla presunzione di innocenza fino a questo punto? La presunzione di innocenza vale sempre, però da un punto di vista politico a me sembra che la Lega dimostri di essere un partito che non è riuscito, o comunque non è un elemento di dinamismo e di trasformazione, ma è, diciamo, ormai tende a essere legato ad abitudini che appartengono a un po' a parecchie forze politiche, e da questo punto di vista è un sintomo di crisi del nostro sistema politico anche questa vicenda del Pirellone, e si dimostra che è venuto meno un equilibrio di potere tra PDL e Lega che a lungo ha coperto alcune situazioni, e adesso che non c'è più questo equilibrio è chiaro che la Lega paga lo scotto di questa nuova situazione. Grazie allora a Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Adesso parliamo dell'azione del governo. Oggi il premier Mario Monti incontra Wolfgang Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, e invece sul fronte lavoro il governo ha convocato le parti sociali per lunedì prossimo. E intanto, a proposito, su questo tema, il tema del lavoro, è intervenuto oggi con alcune dichiarazioni il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Sentiamo che cosa ha detto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Politica economica del nostro paese, impegni per il rigore, la crescita, crisi della Grecia ed Eurobond, tanti temi sul tavolo dell'incontro a Palazzo Chigi tra il premier Monti e il ministro delle finanze tedesco Schäuble. Inevitabile un confronto anche sul mercato del lavoro, su quanto sta preparando l'esecutivo per rendere più produttivo il nostro sistema. Ma di lavoro ha parlato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. In Italia, spiega Visco, non si può non richiedere che si lavori di più, in più e più a lungo. Non si tratta di uno slogan, precisa il governatore, ma di un percorso inevitabile da affrontare con determinazione. Ma ascoltiamo proprio Visco. L'Italia ha molti divari da recuperare, è innanzitutto un paese anziano. Questo rende la sfida della crescita economica non solo più difficile, ma anche decisiva. Il mantenimento stesso del livello di vita raggiunto nel nostro paese non può non richiedere, come ho osservato in altre occasioni, che si lavori di più, in più e più a lungo. Serve di fatto, secondo il numero uno dell'Istituto di Via Nazionale, che il mercato del lavoro funzioni meglio. L'Italia, conclude quindi Visco, è innanzitutto un paese anziano che ha molti divari da recuperare per assicurare una crescita con quelle caratteristiche. E da Roma è tutto. 13:17 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato di Davide Boni, il presidente del Consiglio regionale lombardo indagato per corruzione, che per ora resta al suo posto. La Lega si riunirà nel pomeriggio per valutare le conseguenze politiche del caso. Tensioni anche nel PDL, Berlusconi salta la puntata Porta a Porta per non delegittimare Alfano, spiega Bruno Vespa. E poi le parole del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che dice l'Italia è un paese anziano, per aumentare la crescita occorre lavorare più a lungo. Adesso le altre notizie. Cominciamo dalla Grecia. Oggi la borsa italiana ha comunicato che i prestiti obbligazionari della Repubblica Ellenica sono sospesi dalle negoziazioni a tempo indeterminato. Nel frattempo le altre notizie che riguardano la Grecia sono che l'Unione Europea dice che bisogna aspettare di vedere i risultati finali dello swap prima di commentare. E allora ci colleghiamo con Vittorio Darold del Sole 24 Ore per capire, al di là di questa notizia che ha agitato un po' la borsa italiana oggi, la sospensione dei bond greci, quali sono invece le notizie, Vittorio, che vengono da Atene in queste ore? Sì, innanzitutto c'è una notizia abbastanza inusuale, cioè in attesa che 5 fondi pensioni greci, quindi fondi del, non so, dei giornalisti greci, ad esempio degli autonomi, della polizia e altri 2, hanno deciso di non aderire. La cosa è abbastanza sorprendente perché quelli greci dovevano essere quelli più spinti ad aderire per ridurre appunto il debito del loro paese. Probabilmente ha giocato la notizia che potevano creare delle perdite, quindi gli amministratori di questi fondi pensioni non se la sono sentita di ridurre le prestazioni ai loro pensionati, e questo quindi ha probabilmente bloccato. Poi c'è l'altra notizia abbastanza interessante, che il commissario economico Olli Rehn ha detto che il terzo piano di salvataggio, che addirittura di questo si è parlato in un articolo di Der Spiegel, è stato assolutamente una situazione, un'ipotesi da Cassandra, che lui appunto non condivide, anzi è molto ottimista nella riuscita dello swap. E infine si allunga l'elenco di banche e assicurazioni, diciamo così, gli istituzionali che stanno aderendo. L'ultima è la DZ Bank, che è una banca molto tedesca, molto ricca di questi bond greci, che quindi porterebbe ancora di più la soglia di sicurezza che dovrebbe evitare di far scattare le tanto temute clausole collettive di azione. Bene, grazie Vittorio D'Arold per ora per questi aggiornamenti sulla Grecia. Restiamo all'estero perché c'è una fumata nera sulla liberazione della cooperante italiana Rossella Urru. Infatti il gendarme mauritano Eyle Ulad Mokhtar non sarebbero ancora liberi, così la stampa mauritana. Dalla gioia alla disillusione. Rossella Urru e il gendarme mauritano Eyle Ould Mokhtar non sono liberi. Così riferiscono Sahara Media e ANI, proprio le due testate mauritane che sabato avevano annunciato la liberazione della cooperante italiana e del poliziotto. Ma se la prima indica come fonte la madre del gendarme, l'altra parla di fonti maliane che riferiscono di aver visto ieri sera il poliziotto all'interno di un campo di Al-Qaeda nel nord del Mali. Che cosa abbia fermato la trattativa che solo sabato sembrava sbloccata non è chiaro, ma gli attori sono tanti, troppi, e non è difficile far saltare il tavolo. Ci sono quelli di Al-Qaeda nel Maghreb islamico e i dissidenti della Jamaat Tawhid al-Jihad che trattano con i governi di Mauritania e Italia, spiega la stessa fonte maliana all'agenzia ANI. Al-Qaeda ha rapito a dicembre il poliziotto, mentre gli scissionisti hanno rapito la Urru e i 2 spagnoli nel sud dell'Algeria. Tra i gruppi non c'è accordo sul nome dei prigionieri di cui chiedere il rilascio, senza tener conto che circola sempre la voce secondo la quale il governo italiano sarebbe pronto a pagare e gli appetiti aumentano. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. La cronaca ci riporta adesso in Italia. Tutti rinviati a giudizio i 9 agenti di polizia coinvolti nel pestaggio di Stefano Gugliotta, il giovane di 26 anni, ricorderete, arrestato il 5 maggio del 2010 durante gli incidenti avvenuti a Roma al termine della finale di Coppa Italia tra Roma e Inter. Così ha stabilito oggi il GUP Valerio Savio. Sono tutti accusati di lesioni aggravate. Il cardinale Angelo Bagnasco è stato riconfermato alla guida della Conferenza Episcopale Italiana, una riconferma scontata, quella di Bagnasco alla guida dei Vescovi Italiani per altri 5 anni. Ricordiamo che la CEI è l'unica conferenza episcopale al mondo nella quale il presidente non è eletto dai Vescovi ma nominato direttamente dal Papa. E torniamo a parlare di politiche, dell'azione del governo e del Parlamento, perché in attesa dell'arrivo alla Camera del decreto legge semplificazioni salta intanto una norma che aveva fatto discutere, c'era molta attesa per l'assunzione di 10.000 precari della scuola. Sentiamo. Il governo potrebbe chiedere già oggi la fiducia sul decreto semplificazioni. Se così fosse, la conferenza dei capigruppo della Camera ha deciso che il voto ci sarà domani alle 13.30. L'esame del provvedimento da parte dell'aula di Montecitorio era previsto per le 9 di questa mattina, ma è slittato alle 16 per sciogliere il nodo sulle novità che riguardano la scuola. Dopo una riunione fra governo e relatori si è deciso di cancellare l'aumento delle tasse su alcolici e birra che era previsto da un emendamento per coprire l'assunzione di 10.000 precari della scuola. La copertura arriverà invece da un fondo del Ministero dell'Istruzione o anche aumentando in futuro le tasse sui giochi, ma non è l'unica novità perché nella riformulazione del testo è sparito il riferimento alle 10.000 nuove assunzioni e di fatto non ci sono numeri sui precari della scuola che verranno stabilizzati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora la nostra rubrica dedicata alla lotta all'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Regalo alla passata nobiltà da 1 miliardo di euro. È quanto il Codacons stima venga sottratto all'erario a causa delle esenzioni e agevolazioni che riguardano alcune dimore storiche. Secondo l'Associazione dei Consumatori, delle 40.000 ville, palazzi e dimore storiche in Italia, oltre 2.000 godono di diverse esenzioni fiscali, pur essendo gli immobili in questione spesso utilizzati per cerimonie, feste private, affittati quindi a caro prezzo dai loro proprietari, in genere famiglie della passata nobiltà. Ma quali sono queste agevolazioni? Grazie alla legge 1089 del 1939, queste dimore godono di un'esenzione ICI del 75%, sono esenti dalle tasse di donazione e successione e hanno una detrazione del 19% per le imposte per i lavori di manutenzione e restauro. Codacons ha presentato una formale diffida al Presidente del Consiglio Monti, all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, in cui si chiede di effettuare controlli a tappeto per evitare un enorme danno economico per le casse dello Stato, che l'associazione calcola appunto in 1 miliardo di euro. Noblesse oblige. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso un appuntamento. Primo quaresimale per l'economia e la finanza. Come il cristianesimo provoca oggi l'economia di mercato. È il titolo del convegno in programma sabato a Novara. Tra i relatori l'economista Stefano Zamagni, Katia Caramelli lo ha intervistato. Quello che oggi il cristianesimo, ma meglio ancora la dottrina sociale della Chiesa e segnatamente l'ultima enciclica di Benedetto XVI, Caritas Veritatis, ci dice è: attenzione, che l'economia di mercato di tipo capitalistico, la piega che ha preso negli ultimi decenni è una piega che, se non viene raddrizzata, porta alla autodistruzione. Che ruolo può giocare il terzo settore? E la forma pratica, non teoretica, pratica con cui la dimensione del civile entra anche in economia. Noi siamo purtroppo stati male educati di far credere che le cose in una società avanzata come la nostra possono funzionare bene solamente a partire dallo Stato e dal mercato. Non è vero niente, perché manca la terza gamba, che è la gamba del civile. Senza fraternità una società può anche arricchirsi, ma in una società non fraterna la vita diventa intollerabile. C'è bisogno di una sorta di competitività anche per il terzo settore? Da sempre la competizione, cioè il competere, è fonte di progresso e di avanzamento sia sociale che civile. Si aprirà il 24 marzo a Palazzo Reale a Milano, Lazzi, Sberleffi e dipinti, la mostra dedicata la prima mostra, tra l'altro, dedicata ai lavori pittorici di Dario Fo ed è la ricostruzione dal vivo della sua bottega d'artista, una anticipazione della mostra nell'intervista di Adriana Fracchia proprio a Dario Fo. Questo fatto che lei dice sono un attore dilettante e un pittore professionista, è vera? Ma è vera, naturalmente caricata, perché quando uno si fa una bellezza come 50 anni di palcoscenico, la professione per forza, ma all'origine era così, insomma. Io ho dovuto studiare, sono entrato in teatro, ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri intorno a me e quindi mi sono trovato con un grande vantaggio. Certo che non si può dire che madre natura non l'abbia dispensata di ogni sorta di talento. Sono stato anche molto fortunato e diciamo che ho anche un bel culo. Scusate la parola, ma non ce n'è una che sostituisca. Ho avuto la fortuna, soprattutto, come sono entrato in teatro, di incontrarmi con Franca, e non è una buttata, è figlia d'arte, è nata in teatro, che è stato fondamentale per me, è stata proprio la grande maestra, ed era più giovane di me. Lazzi Sberleffi dipinti è un titolo che ha scelto lei per questa mostra? Sì, sì, proprio perché è la prima volta che si realizza, che io sappia, una mostra che ha un grandissimo impatto sul piano della satira e si muove sul grottesco, come il teatro. È un giusto tributo di Milano a Palazzo Reale per un grande milanese come lei. Beh, la cosa che ho scoperto è che erano anni che non si faceva una mostra nata a Milano e soprattutto che si svolge nell'ambiente lombardo. Ci voleva la giunta Pisapia? Beh sì, io ho aspettato 50 anni per avere uno spazio e non l'ho mai avuto. E adesso parliamo di calcio. Oggi la Juve recupera la gara di campionato col Bologna. Se qualcuno vuole mettere la testa sotto la sabbia, io gliela prendo per i capelli e gliela sollevo e gliela faccio vedere. Per chi non avesse capito la metafora, Antonio Conte non ha esattamente gradito i fischi dei tifosi bianconeri dopo il pari interno contro il Chievo. Fischi inevitabili, dicono in molti, visto che la marcia della sua Juve si è impaludata tra pareggite, polemiche arbitrali e attacco in panne. Fischi immeritati, sostiene il tecnico, visto quel che finora ha fatto la sua squadra. Come spesso accade, la verità sta nel mezzo e i conti si faranno alla fine. Diamo il massimo tutti quanti, poi a fine campionato vedremo questo massimo dove ci avrà portato. Intanto però c'è una trasferta a Bologna da affrontare, in quel Dall'Ara ancora commosso dalle note dedicate a Lucio Dalla e con gli ex juventini Di Vaio in campo e Pioli in panchina pronti a far lo sgambetto alla vecchia signora. Lui, Conte, è invece ancora pronto a scommettere sul discontinuo Vucinic e a lanciare in difesa la coppia inedita Bonucci-Caseres al posto degli infortunati Chiellini e Barzagli. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto, Alessio Maurizio in studio, Roberto Scaltritti in regia, vi augurano buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.